Buongiorno, ciao a tutte, sono Barbara e questo è Acid Yogurt Care, 14 giorni di pratiche, piccolissime per un secondo lockdown. Yogurt Acid Care è il mio programma e in generale è una visione abbastanza fluida ed estensiva della pratica yoga. Come una cura della persona radicale, completa e applicata in un contesto urbanizzato che è la società. Io sono una praticante di yoga, insegnante, ho 200 ore TTC e infatti insegno anche pratiche asanas a Milano. La parte più legata alla ginnastica corporale e a meditazioni. Mi trovate su Instagram o Gmail, stesso username, Barbara Lamulas. Nel mio Instagram trovate anche i link, li trovate anche qua in archivio, però li trovate anche lì. Trovate i link per le vecchie puntate. Siamo alla sesta. Ogni volta registro un episodio live, quindi adesso sto parlando un po' a braccio, e poi lo carico nell'archivio, per cui non c'è problema se vi siete persi dei pezzi. Sono assolutamente smontabili tra loro, anche se hanno un po' una consecuzio. Poi trovate anche i vecchi episodi perché sono già stata su Radio Virus. E ho parlato dei chakra e dei cinque corpi e oggi rintrodurrò i cinque corpi. L'episodio di oggi è dedicato a un mantra e all'idea dei corpi dello yoga, perché il mantra che andremo a trattare è Aham Pranosmi e quindi si parla di prana e quindi è importante capire i livelli da attraversare per arrivare al sé e che cosa significano cinque corpi. Piccolissimo refresh su cosa sono i mantra. I mantra sono delle composizioni di sillabe o parole che sono considerate cibo per la mente e per l'anima e hanno una tradizione antichissima. Addirittura alcuni mantra sono presenti in alcuni testi piuttosto antichi, prima della nascita di Cristo. I mantra possono essere pronunciati mentalmente o a voce alta e possono essere pronunciati in maniera plain, semplice, o con intonazione. Ovviamente il mantra produce delle vibrazioni, una serie di hertz, e queste vibrazioni fanno vibrare sia l'esterno che l'interno. Il mantra pronunciato a voce alta stimola meridiani anche sulla lingua, quindi ha una risonanza più ampia, ma non è una pratica facile e ci vuole un sacco di studio e devozione. In teoria i mantra vanno pronunciati 108 volte. A livello simbolico si associa questo numero perché i nove pianeti si muovono attraverso le 12 costellazioni e creano 108 diversi effetti e influenze sulla nostra vita. Ed ecco il motivo di questo numero. Come al solito non andremo a intonare i mantra, non è la situazione adatta e penso che a un livello di rispetto culturale non sono la persona giusta per aprire la strada a un'intonazione radio di mantra che non mi appartengono. Mi piace qui l'idea di condividere con voi qualcosa che mi fa star meglio durante queste giornate, perché anche io sono in balia della quarantena come voi. Parliamo 2 secondi prima di iniziare la nostra meditazione dei corpi dello yoga. Allora, questo concetto si definisce in sanscrito pancha kosha e significa letteralmente 5 strati. Nella filosofia dello yoga ci sono 5 strati di consapevolezza attraverso i quali la nostra esperienza viene filtrata. Al centro di questi strati, immaginiamoci una cipolla. L'esterno è il nostro corpo più fisico, poi ci sono altri 4 corpi da attraversare, layers di consapevolezza attraverso cui facciamo un'esperienza della realtà, di nuovo, e al centro di questi layers, quello che custodiscono è il nostro Atman. L'Atman è il sé. Abbiamo già visto questa parola più di una volta. Il nostro sé è preesistente, è connesso al sé universale, ma è oscurato da tutta una serie di blocchi che sviluppiamo durante la nostra vita, dovuti a situazioni interne ed esterne a noi stesse. L'attraversamento di questi strati è necessario per arrivare a tirare su quel velo di Maya, che è l'illusione, che è la nostra visione distorta della realtà, per arrivare al Brahman, che è uguale all'Atman, è sempre un sé universale, ma questo giro è quello universale e non il nostro individuale. L'Atman è un riflesso del Brahman. L'Atman, la nostra essenza, è innata, è coperta però da una sorta di veli che offuscano una visione nitida di questa realtà. Il primo corpo è il corpo fisico è fatto di ossa, carne e sensi, è assolutamente mortale. Il secondo corpo, e questo si chiama, scusate, Annamaya Kosha, il secondo corpo si chiama Pranamaya Kosha ed è il corpo energetico, è un corpo fatto di prana, è ciò che muove e dà vita al nostro corpo fisico. Oggi la meditazione la dobbiamo concentrare su questo discorso qua. Il nostro Pranamaya Kosha è responsabile per l'animazione del nostro corpo fisico e quindi della nostra vita ed è composto di prana, la nostra energia vitale, ed è assolutamente influenzato da il respiro, quindi pranayama. Oggi ci visualizziamo come il prana. Noi siamo quell'energia anche. Aham, io sono, pranomasmi, fatto di prana. Il terzo corpo è il Manomaya Kosha, o il corpo mentale o psicologico, è tutta quella parte di noi fatta di abitudini, pensiero, valori. Il quarto corpo è il Vijnana, non riesco mai a pronunciarlo, Vijnana Maya Kosha, il corpo intellettuale, fatto di coscienza, saggezza, eccetera. E poi c'è l'ultimo, Ananda Maya Kosha. Abbiamo già parlato di Ananda in un altro mantra, e Ananda non è altro che la gioia, bliss. È il corpo più vicino all'Atman. Trascende il pensiero logico, qualsiasi cosa legata al terreno. E sicuramente è il più vicino al Brahman as well. Parliamo però di questo prana. Il prana ci attraversa. Non siamo solo noi che in un atto forzato, consapevole, decidiamo di inspirare aria ed espirare in questa maniera abbastanza profana, come visualizzazione per oggi intendo e in generale, ma il prana è un'energia presente nell'universo, che anima l'universo, materica, che ci attraversa. Io sono il prana, quindi io sono il respiro. Aham pranosmi. Aham pranosmi. È molto simile al concetto di ieri, Aham brahmasmi, ma è un po' più terreno. Brahman è una cosa ultima, veramente assolutamente lontana dal nostro pensiero, proprio la realtà ultima universale. Pranosmi, io sono il respiro, ci connette con quella che poi è la forma della realtà ultima, perché è fatto di energia, ma è un concetto più chiaro per noi da visualizzare. Cerchiamo di percepire questo universo che entra dentro di noi. Cerchiamo di percepire oggi il prana attorno a noi, il movimento, la temperatura del prana, la sensazione mentre ci tocca e ci attraversa. Cerchiamo questa è una pratica estremamente grounding, questo è il mio suggerimento per la giornata di oggi. Cerchiamo di ottenere un contatto tattile con l'universo. Feel it, sentiamolo, radichiamoci. Mentre camminiamo, sentiamo come poggiamo i piedi al pavimento attraverso la suola delle scarpe. Se possiamo camminare a piedi nudi per casa oggi, facciamolo e cerchiamo di sentire, andiamo giù ai piedi e percepiamo la connessione. Tocchiamo con le mani. Facciamo qualcosa di grounding, come il giardinaggio o cucinare, preparare qualcosa con le mani. Connettiamoci attraverso le estremità con l'universo e attraverso il respiro, mantenendo saldo in mente questo pensiero: I am breath. Io sono il respiro. Aham pranosmi. Aham pranosmi. Lentamente ci prepariamo alla nostra meditazione. Dovete scusare oggi la mia scarsissima capacità lessicale e connettiva. Mi sono svegliata con un sacco di kapha. Kapha è un elemento che ci compone ed è l'acqua. Quando siamo un po' sornioni, tendenzialmente in down, che dormiamo tanto e sentiamo fatica a fare le cose, quello è un elevato kapha nel nostro corpo, probabilmente fuori equilibrio. Il consiglio è di cercarvi gli elementi Ayurveda se vi interessa, o di esplicitarmelo se volete che vi faccia una piccola puntata sugli elementi che ci compongono. Lascerò andare questo kapha durante questa meditazione pensando a quanto fuoco posso sollevare, visualizzando l'energia che attraversa il mio corpo al di là della mia consapevolezza e azione. Aham pranusmi. Troviamo una posizione confortevole e facciamo qualche stretch per risvegliare il corpo. Alziamo le braccia inspirando ed espirando, muoviamole da entrambi i lati facendo magari dei movimenti circolari con la cassa toracica. Flessibilizzare le dorsali, poi un paio di twist a destra e a sinistra. Se riusciamo a muovere la zona pelvica e le anche, facciamolo. Dopodiché ci mettiamo in una posizione confortevole, seduta o sdraiata. Rivolgiamo tutte le nostre attenzioni all'interno e iniziamo connettendoci al nostro Annamaya Kosha, il corpo fisico, attraverso una pratica velocissima yoga nidra di sensorializzazione delle singole parti del corpo. Iniziamo sentendo attraverso i sensi gli appoggi del nostro corpo alla superficie che ci sostiene. Respiriamo solo ed esclusivamente con il naso e respiriamo attraverso l'addome, quindi quando inspiro l'addome si gonfia e quando espiro si sgonfia e l'ombelico si contrae leggermente. Porto tutta la mia attenzione ai piedi, li sento e li rilasso, espirando li lascio andare. Percorro poi il retro delle gambe, dalle caviglie ai glutei. Lo lascio andare con un espiro, per poi sentire e rilassare con il mio respiro anche il fronte delle gambe. Entrambe le gambe sono più rilassate di prima, danno meno fastidio. Non le sento quasi più e vado a rilassare la parte inferiore del mio torso. Sento gli organi genitali e l'addome, gli organi interni all'addome uno a uno. Espiro dopo espiro, elimino le tensioni, li lascio andare. Lascio andare poi il diaframma, il torace, sento i polmoni, sento la cassa toracica. E con un espiro rilasso completamente la parte superiore del torso e rivolgo la mia attenzione alla schiena. Ascolto gli appoggi, la percorro con i sensi e con il respiro, rilassando ogni singola vertebra, dalle sacrali in salita fino alle cervicali. Lascio andare le spalle, percorro le braccia. Sento il retro delle braccia, poi sento il fronte delle braccia, rilasso completamente braccio destro e sinistro e rivolgo i miei sensi e le attenzioni alle mani. Sento il dorso, le dita, i palmi, i polsi ed espirando rilasso completamente entrambe le mani e rivolgo la mia attenzione al collo e al capo. Distendo la gola. Poi sento i capelli uno a uno e uno a uno li lascio andare. Rivolgo i sensi alla superficie del viso e anche qui, con un espiro, distendo le tensioni da tempie, zigomi, guance, orecchie e mascella. Ascolto la bocca, la lingua, percepisco le labbra e i denti. Espirando, rilasso tutto, dischiudo i denti e le labbra e concedo al mio viso di sorridere e rilassarsi. Poi sento le narici, il naso, l'aria attraverso le narici, il prana che entra di una temperatura e ha una velocità ed esce di un'altra temperatura e velocità. Rilasso le vie aeree, poi sento gli occhi, le palpebre, le sopracciglia, le lascio andare. Rivolgo infine tutti i miei sensi e la mia attenzione all'incavo tra le due sopracciglia, il terzo occhio chakra, Ajna chakra, dove si concentrano tutte le attività neurali sotto forma di onde. Le visualizzo, le sento e con il mio respiro cerco di appiattire queste onde, distendo completamente la fronte e la preparo a una nuova giornata di attività neurali. Lascio andare tutto ciò che è stato, distendo la fronte come fosse un foglio bianco. Osservo il mio corpo, il mio Annamaya Kosha, lo strato più esterno della mia anima, completamente a suo agio, connesso e pesante. Ad ogni espiro più rilassato, sento questo respiro, mi connetto al mio Pranamaya Kosha e inspirando sento l'aria attraverso le narici. La osservo anche espirando. Quando inspiro sento il prana che parte dalle dita dei miei piedi e risale attraverso il mio corpo sino alla sommità del mio capo. Quando espiro, sento questo prana che discende dalla sommità del mio capo sino al margine estremo del mio corpo, le dita dei piedi. Lo visualizzo di un colore acceso e brillante quando entra, carico di energia positiva, questo respiro, nuovo prana. E visualizzo il prana nell'ambiente dello stesso colore. Quando espiro, questo prana invece è leggermente sporco e lo visualizzo di un colore grigio e fumoso mentre esce dalle mie narici. Percepisco questa energia curatrice che mi attraversa mentre permea l'intero universo. Aham pranosmi. Aham pranosmi. Io sono questo prana. Io sono il respiro. Il respiro è me. Aham pranosmi. Introduciamo il mantra. Può essere verbalizzato a voce alta o mentalmente. Cerchiamo di rilassare il nostro corpo durante la pronuncia e non forziamo né il respiro né il mantra. Inseriamo gentilmente il mantra durante l'espiro e lo dilatiamo per la lunghezza dell'espiro e non viceversa. Aham pranosmi. Ognuno di noi va avanti in ripetizione individuale. Una campanella vi inviterà a ad abbandonare il mantra. Aham pranosmi. Aham pranosmi. Momento di abbandonare il mantra. Facciamo qualche respiro più profondo, lasciamolo andare. Lentamente possiamo riniziare a muovere il corpo o proseguire durante questa meditazione. As you wish. Per chiudere questo episodio, vi introduco il sesto switch per la felicità. Lo scorso episodio, lo switch numero 5 era give thanks, quindi ringraziare, essere grati, avere della gratitudine nei confronti nostri, dell'universo, delle persone, delle situazioni, che significa avere una prospettiva di un certo tipo. Oggi lo switch ci invita a dare il meglio di noi stesse, darci, give yourself, be of service, sii utile, mettiti in gioco. Difficile, difficile, difficile. Questo switch di oggi pare fatto proprio apposta per la mia percentuale altissima di kapha, e quindi la mia negligenza e pigrizia di indole di oggi. Give yourself, bisogna dare il meglio. Se non diamo il meglio, nessuno lo farà per noi. Se non diamo il meglio, non ci possiamo lamentare della vita miserabile che ci circonda, perché non avremmo provato a far qualcosa di più per cambiare la situazione. So che è molto difficile, so che è molto molto difficile in questo periodo in cui tutto è abbastanza schifoso, in cui sembra che riceviamo solo schiaffi e niente carezze, però è una cosa che facciamo per noi, non per il resto dell'universo. Io voglio essere la versione migliore di me stessa, a prescindere. Per me mi trovo meglio con me stessa, essere la mia versione migliore. Accetto anche che non sempre lo posso essere, ma ci posso provare. Give yourself, be of service. Diamo il nostro meglio in maniera determinata e umile. Pensiamoci durante questa giornata, anche mentre stiamo facendo qualsiasi cosa, dalle più insignificanti alle più pesanti e importanti, chiediamoci: am I giving my best? Sto dando il mio meglio? Sto facendo del mio meglio in questo task. Cosa significa? Anche nelle interazioni con l'universo, sto dando del mio meglio. A volte mi capita che sono un po' nervosa e tendenzialmente tendiamo a sfogare sul resto dell'universo, tipo Pungible. Riflettiamo un paio di secondi su quello che stiamo per dire. Lo vogliamo dire davvero? Riflettiamo su questo concetto oggi. Siamo un pelino fuori la mezz'ora come al solito e quindi vi lascio così e ci risentiamo domani, che è il settimo episodio e siamo arrivati a metà del nostro percorso. Chiunque mi stia seguendo, I'm very proud, sono molto orgogliosa di voi anime. Ciao.